Quando anni fa frequentavo la leggendaria sezione C del liceo Berchet qui a Milano, il professore di filosofia era solito assicurare a me e ai miei compagni che l'imperativo morale in Kant è formale e categorico. E quando si rendeva conto della sfumatura vitrea del nostro sguardo, che i due termini non ci dicevano granché, spiegava a malincuore che il maestro di Königsberg voleva semplicemente dire che il valore morale di un'azione non dipende dal suo campo di applicazione, da quella che gli scolastici avrebbero definito la sua materia, ma solo e soltanto dalla volontà del soggetto di agire in modo appunto morale, adeguandosi a quel tu devi che, a saperlo sentire, parla imperioso nel cuore di ognuno. La spiegazione naturalmente ci appariva ancora più oscura della proposizione originaria, il che costringeva il pover'uomo a ulteriori faticosi chiarimenti. Ci voleva tanto a capire che la virtù nasce solo dalla volontà di essere virtuosi? Che gli altri pur legittimi fini che l'uomo può proporsi nel proprio agire con il valore morale non c'entrano una beata fava? Che obiettivi quali l'utilità, il diletto, l'affermazione di sé, tutte queste cose qui, afferiscono a sfere affatto diverse e chi li privilegia prende inevitabilmente una brutta strada? Guardate, ragazzi, guardate. Vi dico una cosa, la stessa soddisfazione che si prova quando si compie una buona azione, in sé con la morale non c'entra nulla, anzi, può essere pericolosa. Il tipo, come avete capito, con Kant ci azzeccava pochissimo, era un vecchio signore devoto ai preti, al catechismo e a San Tommaso, e non era mai tanto a suo agio come quando poteva spiegare che la ricerca del piacere sotto qualsiasi forma, anche la più spiritualizzata, anche quella appunto del piacere dell'onestà, andava accuratamente evitata, pena le conseguenze peggiori. Per noi, che sulla scelta tra piacere e virtù ci sentivamo in qualche modo più incerti, la conclusione era abbastanza ovvia. Se la morale escludeva così rigidamente qualsiasi ipotesi di gratificazione, voleva dire che per essere davvero morali in qualcosa bisognava smenarci. Una concezione, come dire, afflittiva dell'etica, che a Kant avrebbe probabilmente fatto venire l'orticaria, ma in fondo con la dottrina cattolica, la dottrina del peccato originale, andava abbastanza d'accordo e a quell'insegnante non doveva dispiacere più che tanto. D'altronde idee del genere erano largamente diffuse nel paese allora e non credo si siano del tutto esaurite oggi. Io ripensavo a quegli insegnamenti lontani l'altro giorno mentre raccoglievo le carte e le idee in vista della dichiarazione dei redditi. È da anni ormai che quel fondamentale ma non entusiasmante momento della vita del cittadino ci viene, come dire, ingentilito dalla possibilità di fare del bene a costo zero. Nata dalla necessità di finanziare la Chiesa Cattolica senza suscitare anacronistiche proteste di stampo laico, la cosiddetta scelta della destinazione dell'8 per mille permette ormai di trasferire una quota del proprio reddito tassato a pie organizzazioni che se ne serviranno per gli usi più commendevoli. Sono pochissimi cattolici, appunto, e pochi altri, che intendono utilizzare i nostri soldi almeno in parte per le proprie necessità di culto e di organizzazione. Anche loro preferiscono proporsi con immagini affatto profane, come gli spot in cui i sciami di Allegri Negretti dimostrano al vivo quanto fa bene la Chiesa anche sotto il profilo mondano, e tutti gli altri possibili destinatari assicurano, per quanto vagamente incongruo il proposito possa sembrare, che non terranno una lira per sé, che finirà tutto in ospedali, cura degli anziani, assistenza all'infanzia, sostegno ai bisognosi, conforto dei miseri, ci garantiscono a nostra maggiore tranquillità che rinunceranno anche a quel meccanismo truffaldino di ripartizione delle destinazioni non espresse in base alla percentuale di quelle espresse, per cui a non barare nessuna casella si finisce per dare soldi alla Chiesa, no? E chi con le Chiese non vuole avere proprio a che fare, o ritiene meritevoli di sostegno anche i soggetti laici, da quest'anno ha anche la possibilità di destinare un ulteriore 5 per mille, voglio rovinarmi, ad altre cause meritevoli, finanziando il volontariato, le attività senza fine di lucro, anche al di là delle mediazioni ecclesiali. Basta firmare la casella, inserire nell'apposito spazio il codice fiscale del beneficato prescelto e il bene è fatto. Oh, sono 30.000 i soggetti che si sono proposti come destinatari della nostra scelta, e la scelta è vasta, e le sollecitazioni sono fatalmente parecchie. La necessità di far conoscere la propria ragione sociale, il proprio campo di intervento, il proprio numero di codice fiscale soprattutto, e costringe i soggetti interessati, religiosi o profani che siano, a un'intensa opera di propaganda. Non so se ve ne siete accorti, ma trasporti radiofonici e televisivi, messaggi elettronici a pioggia, comunicazioni cartacee a domicilio, il contribuente, in questi giorni di maggio, ha come l'impressione di vivere nel mezzo di una specie di supermarket virtuale dell'opera buona, e gli si dà la possibilità di scegliere dagli scaffali, no? Tra i tanti problemi irrisolti che la società esprime, tra dolori, bisogni e disagi di ogni tipo, tutti meritevoli di essere alleviati, e se ciascuno vanta la bontà, l'utilità o la necessità del proprio progetto, tutti insistono più o meno sulla gratuità dell'offerta. E quell'8, 5, 13 per mille, perché sono sommabili, e se non lo destini a qualcuno lo pagherai comunque in tasse, perché nessuno te lo sconterà dalla cifra dovuta dall'erario, per cui insomma, cosa ti costa darlo a me? Ne farò il miglior uso possibile. Ecco, io non so voi, ma a me tutto questo un po' di fastidio lo dà. Non capisco neanche bene perché. Per un certo tempo ho creduto che dipendesse da quei lontani fraintendimenti kantiani di cui vi dicevo, da quel principio del per essere morali qualcosa bisogna rimetterci. Per fare del bene ci devi mettere qualcosa di tasca tua, insomma. Una beneficenza che non costa niente, secondo quella logica, finisce per essere sospetta. Però è una logica un po' apera e la soluzione probabilmente va cercata altrove. Anche perché, a pensarci proprio bene, e le oggezioni che non costano niente, non ce ne sono, non ne esistono. E quei soldi che vanno alle chiese e agli enti senza fine di lucro, ammesso che siano senza fine di lucro, da qualche parte verranno comunque. E non è neanche difficile capire da dove: escono dal bilancio dello Stato, che destinandoli ai soggetti indicati esplicitamente o implicitamente dai cittadini non potrà ovviamente servirsene per altri usi. Quindi la scelta non è tra dare e non dare, tra pagare e non pagare, perché pagare si paga comunque. La scelta è di chi dovrà gestire parte di quanto si paga, se le strutture pubbliche o certi soggetti privati, con tutto ciò che l'alternativa comporta, perché l'alternativa tra pubblico e privato è appunto argomento del dibattere assai vivo in questi tempi. Nel caso, visto che l'opzione riguarda di default la dimensione privata e lascia quella pubblica in posizione affatto residuale, e tutto il meccanismo si configura in definitiva come una sorta di parziale privatizzazione del welfare, come il riconoscimento che certe cose le fanno i privati, e se ecclesiastici meglio. Potrebbe essere un'idea, visto i non esaltanti risultati della mano pubblica come la conosciamo, però anche le sue brave controindicazioni. In definitiva, se l'alternativa fosse resa esplicita, in modo di poterne discutere, di vedere i pro e i contro, sarebbe sicuramente meglio. Ma un'alternativa esplicita, quando si tratta di bussare a quattrini, non te lo offre mai nessuno.